Cassazione di Colle Brianza, e questi sono spettacoli dedicati soprattutto alle famiglie, ai bambini, alla primissima infanzia anche in alcuni casi. E invece per quanto riguarda gli altri spettacoli, solitamente la domenica ci sono degli spettacoli pomeridiani, gli altri giorni invece abbiamo i social dinner che sono alle 19:30-20 e poi da quel giorno in poi partono gli spettacoli per tutta la serata fino a notte. Una caratteristica del festival è che, pur avendo tante location diverse, quindi tanti palchi diversi, alcuni per il Metro Bosco, altri in Cascinali, altri nella nostra sede che è Canziago Residenza, altri ancora in Corti, in ville anche storiche significative e importanti come Casa Gola o Villa Soni di Celardi, quello che cerchiamo di fare però è di non disperdere il pubblico da un luogo e l'altro, quindi ogni serata ha un luogo dedicato. Per luogo dedicato intendo magari anche due ville che stanno a 300 metri di distanza l'uno dall'altro, però l'intento è quello di permettere al pubblico di farsi la serata e la nottata o addirittura il weekend, perché il festival è composto su tre weekend lunghi, abbiamo anche degli spazi in cui lo può mettere se vuole, la tenda e piuttosto che i turismi, chiaramente la tenda intendo dire per chi non intende spendere soldi per dormire e non si può fermare e stare qui tutto il weekend, quindi è un festival che cerca di essere festival nel senso di creare una comunità tra gli artisti e il pubblico, la cittadinanza locale e tutti quelli che vengono. Questo è un po' l'idea di composizione. Per ulteriori informazioni e dettagli ci sono dei riferimenti internet? Certo, allora abbiamo un nuovo sito che è il Giardino degli Spiriti Festival. Su questo sito ci sono tutti i dettagli, ci sono i dettagli sui singoli spettacoli, video, immagini, e ci sono anche le micro map, Google Map per facilitare il raggiungimento di questi posti che non sempre sono intuitivi e facilissimi proprio perché sono un pochino fuori dalle rotte più battute, diciamo, dal pubblico e dalle persone. E allora ricordiamo la 15ª edizione del Festival in 4 comuni della provincia di Lecco dal 21 giugno al 7 luglio 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Michele Losi. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie molto, ciao. Con il codirettore Alessandro Fabrizi per presentare la 6ª edizione della Festa di Teatro Ecologico dal titolo Paura e Desiderio a Stromboli dal 22 al 30 giugno 2019. Alessandro, ben trovato. Ben trovato a te Federico, ciao. Raccontiamo dalle origini un po' per chi non lo conoscesse. La Festa di Teatro Ecologico è nata con un'edizione zero nel 2013, è nata da un'esperienza di laboratori di metodo Linklater che svolgevamo invece sull'isola dal 2015, alla fine dei quali presentavamo dei materiali su quali gli attori partecipanti dei laboratori avevano lavorato al pubblico e li presentavamo appunto in versione unplugged, a spina staccata, cioè senza luce elettrica e senza amplificazione elettrica. E quindi nel 2013 a Leonardo Gambardella, Tommaso Capodanno e me è venuta voglia di invitare altri amici a fare questa esperienza e sono venuti, si sono divertiti e piano piano anche l'isola ha iniziato ad apprezzare questa settimana di eventi a spina staccata e siamo arrivati al settimo anno, alla crisi del settimo anno, forse, non lo so, vedremo, ma comunque la 6ª edizione Paura e Desiderio. Lo scorso anno Frankenstein, stavolta invece Leonardo c'è in qualche modo. Sì, perché quest'anno appunto ricorrevano questi due importanti anniversari, uno era quello dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e l'altro è quello dei 50 anni dall'allunaggio, dal primo allunaggio, e così abbiamo giocato con l'idea di realizzare il sogno di Leonardo, che era quello di permettere all'uomo di volare, e così scherzosamente diciamo che portiamo Leonardo sulla Luna. E infatti il bellissimo acquarello che ha fatto Consuelo Mura per l'edizione di quest'anno mostra la macchina volante di Leonardo che si avvia verso la Luna, perché appunto poi se 500 anni fa Leonardo moriva senza aver scoperto il segreto del volo, 50 anni fa l'uomo non solo aveva imparato a volare ma appunto era arrivato fin sulla Luna, per cui abbiamo messo insieme questi due eventi, partendo da uno scritto di Leonardo, Paura e Desiderio, viene da lì, il titolo viene da lì, perché Leonardo scrive, racconta una sua sensazione, si sente come di fronte a una caverna buia e prova al tempo stesso la paura del buio, ma anche l'attrazione, il desiderio di trovare qualcosa di meraviglioso. Quindi alla fine la festa è dedicata ai viaggi nel buio, ai viaggi di scoperta, appunto nello spazio, nella materia, ci sarà un incontro sul bosone di Higgs, nei sentimenti, nel cuore umano, per mare, per terra, parleremo delle pescatrici eoliane, delle donne pescatrici eoliane che di notte prendevano la barca per andare al largo a pescare, e leggeremo il viaggio al centro della Terra di Verne. Insomma, tutti quei viaggi tra scienza e fantascienza, tra immaginazione e realtà, che hanno, come dire, permesso all'uomo di scoprire qualcosa di meraviglioso. Immagino che anche quest'anno le location saranno differenti. Quanti saranno gli eventi? Sono tantissimi, e anche quest'anno facciamo un esperimento, proviamo a fare degli eventi in contemporanea, perché con l'aumento del pubblico vogliamo offrire alle persone la possibilità di scegliere se vedere una cosa o un'altra, con una replica più o meno il giorno dopo o qualche giorno dopo, così che possiamo smistare il pubblico. Però insomma sono 9 giorni di eventi, dalla mattina alle 9 alla sera alle 11, quindi sono tantissimi, non si so fare il conto, ma sono tanti, saranno almeno una trentina. Okay. Almeno una trentina, e tra questi ci siamo arrischiati anche a fare una proposta un po' pazza, di una specie di rave teatrale, perché faremo il Midsummer Night's Dream di Shakespeare, che appunto si svolge nella notte di Midsummer, che viene normalmente tradotto come notte di mezza estate, in realtà è la notte tra il 23 e il 24 giugno. Siccome queste date sono nel calendario della festa, abbiamo deciso di offrire agli spettatori la possibilità di seguire il sogno di Shakespeare negli orari in cui si svolge l'azione, per cui faremo il primo atto alle 7, il secondo e il terzo a mezzanotte, il quarto all'alba alle 5 del mattino e il quinto la sera alle 11, che è appunto quando si svolge nel testo, insomma una specie di rave shakespeariano. Per quanto riguarda gli appuntamenti, c'è sempre il connubio tra arte e natura. Assolutamente, appunto anche questo che ti raccontavo, no? Questo sogno lo faremo in vari luoghi dell'isola, in una casa, in un bosco, in un altro bosco, e poi finiremo al sagrato della chiesa di San Bartolo, e ovviamente siamo molto curiosi di vedere come la natura accoglierà questa proposta, perché come sai qui il tempo cambia anche senza preavviso e la luce cambia meravigliosamente, per cui sì, la regia di questi eventi in buona parte la fa la natura, la determina, cioè veramente la qualità dell'evento lo determina tantissimo, l'atmosfera, la luce, il clima, sì. E per saperne di più ci dai tutti i riferimenti web? Abbiamo appena pubblicato il programma definitivo di quest'anno sul sito www.festaditeatroecologico.com e poi c'è la nostra pagina Facebook dove è possibile appunto avere i link al sito. Allora, ricordiamo la sesta edizione della Festa di Teatro Ecologico, Paura e Desiderio, questo è il titolo dell'edizione, a Stromboli dal 22 al 30 giugno 2019, un saluto e un ringraziamento al co-direttore Alessandro Fabrizi. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto! Viva il lupo e a presto, grazie a te, un abbraccio. Ciao, a te. Ciao Ale. Ciao, ciao. Con Francesca Nodari, direttrice della 14ª edizione del Festival itinerante Filosofi lungo l'Oglio, dal 4 giugno al 21 luglio 2019. Francesca, ben trovata. Ben trovati a tutti i radioascoltatori e molte grazie per questa chiacchierata, ciao Federico. Ci racconti, partendo proprio dagli inizi, com'è nato questo festival? Beh, questo festival è nato 14 anni fa, è nato quasi come una scommessa per il grande desiderio e la passione di riportare, come si suol dire, il filosofo, il pensatore in mezzo alla gente, in quella che

la, una familiare sorella importante per il suo percorso. Quindi andiamo a vedere invece adesso ciò che il teatro ci offre per la settimana. Allora, andrei per primo al Teatro Vascello, perché al Teatro Vascello prossimo lunedì, quindi il giorno prima del nostro sentirci nuovamente, verrà presentato questo lavoro che si chiama Sinless 2019 ed è un lavoro di danza con le coreografie firmate Pogliani, Annarumma, Borghini, Della Corte, Madama, Montaruli e Zamperin. Sinless è un lavoro che cerca, diciamo, di segnare la singolarità all'interno della differenza. Le differenze non contengono intrinsecamente un'attribuzione positiva o negativa e dunque possono essere definite come orizzontali. Queste le caratteristiche un po' della che orizzontale è la caratteristica della forma scenica che prenderanno queste coreografie lunedì 1 luglio alle ore 21, Teatro Vascello. Poi ti porto al Teatro India, perché al Teatro India resta ancora fino al 28, quindi per ancora qualche giorno, fino a venerdì, piccolo lavoro, anzi piccolo regalo che De Florian Tagliarini fanno alla città di Roma e soprattutto al cinema girato nella città di Roma, perché quando non so cosa fare, cosa faccio, che è uno spettacolo itinerante attorno al quartiere che circonda il Teatro India di Roma, ovvero sia Lungotevere, poi Trastevere, Ostiense, Portuense anche, e verrà poi affrontato attraverso il recupero dei luoghi abitati attorno a Viale Marconi dalla protagonista Adriana del film Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli nel 65, interpretato da una meravigliosa Stefania Sandrelli. Questo per quanto riguarda il Teatro India questa settimana. Io l'ho visto, chi non ha avuto modo vada assolutamente, perché è un bellissimo lavoro. Al Teatro Quarticcioli invece questa settimana, 27 giugno, inizia il programma di Fuori Programma al Teatro Vascello, ovvero sia un percorso legato alla danza, e derivazione numero 5 di Salvo Lombardo. Il 27 di giugno porterà sulla scena la restituzione finale di questo laboratorio che Salvo Lombardo sta conducendo all'interno del festival, appunto, Fuori Programma, gestito dalla direzione artistica di Valentina Marini. Derivazione, appunto, numero 5, fa parte di un ciclo di performance urbane non numerate realizzate in diverse città d'Italia. Questo è quanto è il lavoro che Salvo Lombardo sta cercando di compiere e che compirà anche a Teatro Quarticcioli in questi giorni, ed è la percezione e la memoria del gesto e il rapporto all'idea di spazio pubblico. Questa è la domanda, assai specifico ovviamente, dell'ideazione di Salvo Lombardo, che il 27 giugno alle 19.30 ci porterà all'interno della sua derivazione numero 5. Mentre ancora il primo di luglio ci sarà un nuovo appuntamento con Thomas Noon Dance, After the Party, A Tooth for One Dancer, prima assoluta, una coproduzione del festival. Thomas Noon porta questa sua coreografia e interpretazione, si ritrova collassato su una sedia con un sovraccarico sensoriale da molte conversazioni che si fondono in una sola. Questo è un po', no, il territorio in cui cerca di muoversi Thomas Noon con questo suo nuovo lavoro, che verrà presentato al Teatro Quarticciolo il primo di luglio alle ore 21 al Teatro Quarticciolo. Cosa ancora? Adunque, io ti porto 26-27 giugno, Grandi Pianure, gli spazi sconfinati della danza contemporanea. Solo danza viene presentata quasi questa settimana, ma è un gran nome quello di Olivier Dubois con My Body of Coming Forth by Day. Questo è il lavoro che Michele Di Stefano presenta come direttore di questa rassegna Grandi Pianure, è all'interno del Teatro di Roma, che è dedicata alla danza, il 26-27 giugno, quindi domani e dopo domani. Un grande coreografo della scena francese, questo Olivier Dubois, con grande visionarità pregiudicata e inventiva, porta questa performance intima, un rito pagano dai furori dionisiaci, ci dice lo stesso Dubois, con un stretto contatto con il pubblico, insomma, e una indagine sulla memoria del corpo. questo è ciò che ci viene portato attraverso sia le gioie che le cicatrici, insomma, le sensazioni e le ferite che il corpo assorbe nel tempo. Questo è quanto. Teatro India, perdono, 26 e 27 giugno, il palco è quello del Teatro India. Ultimissimo lavoro sarà quello che sarà in scena il 28 giugno, venerdì, al Teatro Torlonia, sempre nell'orbita del Teatro di Roma, un ciclo di concerti e spettacoli del Circolo Gianni Bosio, Nostra Patria e il Mondo Intero. In questa occasione andremo a vedere Davide Ambrogio con Evocazioni e Invocazioni, una piccola storia musicale fatta appunto di suono e di interpretazione da un paese della Calabria, la voce, la lingua e il suono che diventa musica, è quello il percorso di questo artista che suona tantissimi strumenti e racconta un po' della sua storia personale, la storia del suo particolare luogo di provenienza. 28 giugno che è venerdì, e questo, Federico, direi che è tutto. Simone, un abbraccio, alla prossima! Ciao! Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.